Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, 451 Frammenti Sonori ritorna in diretta qui appunto sulle frequenze di 96.25 e 94.700 MHz, trasmissione quella di 405, perché ridi? No, va bene. Perché non mi ricordo, non mi sono ricordato, vedi? Sì, per 96.25 e poi 94.700. Vabbè, 44.7, dai, insomma, si capisce, non essere pignolo, dai. Va bene, dai, faccio un po' dai, così. Dai, che è arrivata l'estate, che sei contento, ecco, che ti denudi, che te piace, dai. Vabbè, 400, no, a me non mi piace, io voglio stare vestito. Però ti piace l'estate. Mi sta piacendo di più l'estate degli ultimi anni, devo dirti la verità. Vabbè, al di là di queste nostre lucubrazioni e analisi del nulla, andiamo a bomba, potremmo dire, è proprio il caso, direi, dato anche il tema della trasmissione. 451 Frammenti Sonori riparte come ogni domenica e continuiamo in questa domenica il percorso che abbiamo iniziato la scorsa settimana con Arte e Catastrofe, la prima parte così da noi denominata, dato che abbiamo affrontato temporalmente questo tema della catastrofe a livello artistico, a livello musicale, trattata da vari progetti e non negli anni 70 fino ad arrivare nei primi anni 80. Noi continuiamo, dunque ripartiamo dai primi anni 80 e abbiamo, diciamo, sotto titolato Arte e Catastrofe seconda parte, dopo la catastrofe due punti la catastrofe e dopo la catastrofe, hai capito? La catastrofe. Dopo la catastrofe ancora la catastrofe, praticamente la catastrofe è infinita, ecco. È una catastrofe indeterminata questa. Grazie. Beh, questa perlomeno è indeterminata, per molti aspetti invece c'è poco di indeterminato, nel senso soprattutto lavorativo. Ah, in quel senso, sì, beh, quello, contratti, il tempo indeterminato ormai è indeterminato. È indeterminato, proprio, nel senso che non lo tireranno mai più fuori. E poi anche se c'è, basta vedere cosa è successo, tutta l'ideologia portata dietro, adesso con cassa integrazione, disoccupazione, sono saltati pure gli indeterminati, dunque. Ecco, quindi sì, è sempre la solita presa per il culo, chiaramente, o da una parte o dall'altra, insomma, cambia la posizione, ecco, Kamasutra. Utrica, ecco, però... Dunque abbiamo voluto affrontare questo tema e appunto la seconda parte ripartirà, diciamo, dai primi anni 80 per arrivare fino ai giorni nostri, proprio a tema, ecco, pienamente a tema sulla crisi e sulla catastrofe sociale, umana. E chi più ne ha più ne metta, anche politica vorremmo dire, perché chiaramente anche questo aspetto è abbastanza inquietante, se non dire proprio inesistente in questo momento in Italia. E Arte e Catastrofe seconda parte, dunque stasera ripartiremo da questo percorso storico, speriamo che la prima parte abbia colpito, comunque interessato, incuriosito e smosso gli ascoltatori. In questa seconda parte affronteremo principalmente, ripartiremo diciamo dagli anni 80 e soprattutto affrontando un filone che a noi è molto caro, cioè quello, ma non solo chiaramente, quello industriale, ma non solo, ripeto. Sì, sì, di caro. Dica, prego. Ah, beh, dice prego. No, ti lancio la palla oppure una pietra. No, lanciami la palla, basta, dai, tanto di palle ce n'è sempre bisogno. Infatti. Last Few Days, progetto che sì, per così dare sommi capi di riferimento, si possono considerare industrial. Si possono considerare industrial perché vengono da quella scuola slava vicina all'Aibach, ma poi entrando dentro la faccenda si può parlare più di situazionismo e quindi anche un nome che già la dice lunga sul catastrofico, ovvero gli ultimi pochi giorni, proprio legati alla catastrofe imminente, ci portano appunto a una situazione di grande sconforto musicale, se vogliamo, però poi di fatto la creatività, come abbiamo dimostrato appunto nella prima parte di 451 legata a Arte e Catastrofe, è legata appunto a questo disastro che si prospetta, un disastro che quindi viene sonorizzato e questo paradossalmente crea appunto una grande vitalità sperimentale. Last Few Days in pochi minuti ci lanciano dentro una sorta di guerra finale, dove appunto la tragedia imminente è quasi portata all'assurdo, quindi appunto diventa una sorta di anche guerra da fumetto noir, per poi appunto dirigerci verso un altro gruppo catastrofista di quegli anni, 1982 per quanto riguarda Last Few Days, e poi Gerrit Tig Kites Liga tedeschi, chiaramente si capisce un po' dal nome. A tra poco, mi raccomando, non vi buttate dalla finestra, è bella musica alla fine. Ah, dobbiamo dirlo però, perché c'è il rischio? Ma è una battuta, una forma retorica così per fare simpatico. Sì? Vabbè. Non sono stato simpatico. Sì, sì, vabbè. Sì, sono provato. Ok, vabbè. La sfida. We'll be right back. Thank you. Beh, è un senso di disastro avvertito come incombente per quanto riguarda Gerek Tig Kites Liga, Teteschi di Germania, che chiaramente portavano un po' alle estreme conseguenze discorsi ad esempio vicini a Estro Zeno Ibauten, sicuramente comunque con i più famosi Neubauten si va, come abbiamo detto tante volte, più su un terreno legato al rock, sempre chiaramente molto sperimentale, legato a quella scena grandiosa che fu la musica industriale, direttamente collegata con la catastrofe, con l'arte e la catastrofe. Sicuramente invece per quanto riguarda i Gerek Tig Kites Liga si va su quella sonorità che poi trasformerà buona parte di quella scena in un qualcosa di più articolato, soprattutto per quanto riguarda ritmicità che anticipano anche molta della techno più scura che da lì a pochissimo si svilupperà, visto che il disco Hypnotischer Existenzialismo è del 1985, quindi da lì a pochissimo si svilupperà tutta la scena techno sia in America che un po' dopo anche in Europa, e sicuramente buona parte verrà presa da questo catastrofismo ritmico portato avanti anche da gruppi appunto come i nostri tedeschi, e come d'altronde forse anche per molti altri aspetti la Last Few Days, che hanno aperto questa seconda parte di Arte e Catastrofe. Sì, e dopo queste due formazioni che si agganciano, diciamo, in una soluzione di continuità con la trasmissione della domenica scorsa, dunque ripartendo dai primi anni Ottanta, con una formazione iper conosciuta nell'ambito della musica industriale, non solo, perché poi sono usciti anche molto dalla musica industriale in senso stretto, allargandosi e sperimentando a 360 gradi, si parla dei Coil. Ci spostiamo, mischiamo un po' le carte, come ama dire il buon Max, e ci spostiamo in termini temporali dall'85 e andiamo a finire al 2000, anche se poi chiaramente formazione come Coil ha avuto la sua grande importanza sulla scena industriale, appunto, e non solo, negli anni 80. Formazione nata a Londra nel 1982 circa, formazione che ha visto nel suo grande personaggio, oltre che voce, anche grande fautore principale del progetto COI, cioè il grande John Balance, che purtroppo ci ha lasciato pochi anni fa. La formazione chiaramente poi ha perso anche il senso che aveva nella costruzione del progetto, dove Balance appunto era abbastanza, direi, fondante. Nel disco ovviamente che abbiamo selezionato Aurora, cioè Astral Disaster, che poi anche qui tutto il titolo è un programma, sta perfettamente dentro ovviamente la dimensione catastrofista, addirittura un disastro astrale, dunque nemmeno terreno legato al mondo nostro, alla nostra terra, ma proprio astrale, dunque sistemico a livello quasi planetario, e si affronta il tema catastrofista e distruttivo del periodo chiaramente che ci stiamo vivendo. Poi noi l'abbiamo ovviamente spostato sul terreno catastrofista di questi anni, ma in realtà il discorso era già preso molto in anticipo prima della scena industriale, prima ancora negli anni 70, l'abbiamo affrontato la domenica scorsa, direi anche prima degli anni 70 da qualche grande genio visionario che già intravedeva nella prosecuzione, nel disfacimento del nostro bel sistema capitalistico, qualcosa di abbastanza agghiacciante. Basta insomma andarsi a leggere qualche bel libretto, qualche bel romanzo di fantascienza e non solo, anche certi sperimentatori nell'ambito dell'elettronica contemporanea, non del dopoguerra e anche prima, che insomma, e poi non parliamo del cinema, perché anche lì avremo un altro universo di catastrofi annunciate e previste. Coil, appunto, in Astral Disaster entrano pienamente in questo discorso e costruiscono un disco molto molto bello, dove si intravedono dimensioni appunto catastrofiche, per certi versi anche connesse a un certo isolazionismo dell'epoca anni zero, ovviamente di una certa industriale a cui loro facevano riferimento, da cui sono partiti, e anche a una dimensione tribale che ciclicamente è sempre presente nei lavori dei Coil stessi. Andiamoci dunque ad ascoltare Astral Disaster, album uscito nel 2000, e niente, poi rientreremo con un'altra formazione abbastanza importante. Niente nel senso di catastrofe. Niente di catastrofe. Va bene? Sì, sì. A posto. Nulla è nulla catastrofico. Appunto. Thank you.

Just Illusion, come un'illusione per Zovet e Friends, che in sostanza giocavano a rimpiattino dentro 451, dentro questa seconda parte di Arte e Catastrofe. Giocavano a rimpiattino sicuramente con Coil, ma anche con Last Few Days, che aprivano la trasmissione, e Gerechtig Kites League. Perché? Perché tutti vengono da quel nocciolo sperimentale catastrofista dei primi anni Ottanta, con tanto di riferimento a quello che era già la catastrofe dei 70. In effetti, seconda parte di Arte Catastrofe, dopo la catastrofe, la catastrofe. E perché? Perché sostanzialmente si allunga e si sperimenta quel nucleo e quell'embrione, appunto, di grumo rumorista che usciva dal basso, non più dalle grandi cattedrali, diciamo così, laboratoriali delle avanguardie, ma vicine sicuramente a un'attitudine punk, seppure insomma anche in polemica tante volte per radicalità politica e espressiva linguistica tra industrial punk, ma sicuramente quello è l'humus culturale, ovvero partire dal basso per spararla veramente in alto, nel senso che poi si sono veramente reinventati queste formazioni, queste progettualità, un suono cacofonico che ha preso tanto dal rock, prima citavamo ad esempio Neubauten, ma anche tanto dall'avanguardia, tanto da certe forme di concretezza, ha inventato nuovi modi di trattare il suono rumore con un immaginario catastrofista che andava dentro le maglie, appunto, di un sistema sociale, cercava di scioccarlo con delle tattiche e strategie decisamente forti, sia a livello di immaginario oppure ambigue. Anche questo è stato sicuramente una delle tattiche di buona parte dei catastrofisti degli anni Ottanta, riportate poi per certi versi anche negli anni 90. E poi un suono che, ad esempio, per quanto riguarda Zovet Friends, appunto, si è ascoltati insieme a Coil con il loro Just Illusion del 1990, si va proprio a sottigliare quelle sonorità defagranti dei primi anni 80, per cercare quasi, appunto, una sorta di entropia sonica scura che vada, appunto, dentro e che oppure ritorni a questo dentro che è annerito e che però ancora riesce a esprimere in maniera quasi paradossale una sorta di creatività anche piuttosto notevole. Un po' il paradosso che stiamo utilizzando da due trasmissioni a questa parte, ovvero quello dell'arte e della catastrofe, che sembrerebbero insomma in opposizione. In realtà la catastrofe è dentro l'arte. Prima Eliseo citava vari esempi del Novecento, ma già la scorsa trasmissione dicevamo che, ad esempio, già nel teatro greco la catastrofe era utilizzata, di conseguenza poi anche nel teatro romano, e c'è sempre stato questa idea di catastrofe dentro comunque la creazione artistica, quindi una sorta di paradosso che però funziona come? E funziona anche attraverso una formazione. Qua ci caliamo perfettamente dentro gli anni 90, nel senso che, a differenza di Coil e Zovet Friends, che attraversavano gli anni 90 e gli anni 0, ma partivano come esperienza musicale già dagli anni 80, qui entriamo proprio dentro un progetto che nasce negli anni 90, formato nella techno di Detroit all'inizio degli anni 90, con soprattutto il personaggio Shara Ingram, che forma questa formazione assolutamente importantissima nella scena dell'elettronica degli anni 90, gli Urban Tribe, formazione che è stata oltretutto tra le prime inserite a 451 frammenti sonori un decennio fa, un disco che oltretutto amiamo particolarmente perché ha sicuramente segnato anche la nostra stessa formazione musicale connessa all'elettronica degli anni 90, The Collapse of Modern Culture, il collasso della cultura moderna. Anche questo un disco chiaramente legato all'idea catastrofista, in questo caso connessa soprattutto alla cultura, ma ovviamente connessa a un sistema culturale dominante, a una dimensione che oltretutto i personaggi, tutta la scena di Detroit ha conosciuto molto bene con la crisi ovviamente delle grandi fabbriche automobilistiche di Detroit. Da lì poi è nato, e abbiamo fatto già diverse volte il discorso, l'analisi storica di quello che è stata la nascita della tecnologia di Detroit e quel periodo sociale, politico, storico, economico che l'ha attraversata, che l'ha fatta poi anche nascere e progredire negli anni 90. Formazione Urban Tribe che oltretutto intercetta anche tutta la corrente che ha avuto sicuramente grande fortuna negli anni 90, cioè quella isolazionista mischiato ovviamente alla techno e anche una certa trip hop ovviamente molto evoluta e molto scura anche utilizzata dagli stessi Urban Tribe. E in questo disco soprattutto il brano finale, che è appunto una chiosa di tutto il discorso elaborato attraverso brani musicali dagli Urban Tribe, è perfettamente dentro l'idea di stasera di arte e catastrofe, e direi proprio dopo la catastrofe un'ulteriore catastrofe, e qua gli Urban Tribe direi che ci stanno proprio a pennello. Eh sì, la tecnologia a scontrarsi con quest'idea appunto definitiva. Andiamoci a sentire dunque, a risentire direi, questo grande disco Urban Tribe. e degli scenari post-industrial di, a questo punto bisogna dire, di Urban Tribe, però virati chiaramente sulla techno Detroit, l'afrofuturismo che si annerisce diventa apocalittico. Prima del radiogiornale, prima della seconda parte di Arte e Catastrofe, ci sentiamo Anton Nikhil, The Classified Information, del suo album White Nights, e qua la techno si sposta invece sul nord Europa, vicino a certe visioni e immaginari panasonici, catastroficamente appunto immaginifica, come soltanto un finlandese come Anton Nikhil poteva fare. A dopo. Thank you.